Signore e signori, ecco a voi Cappa e Drago. Cappa e Drago. O Drago e Cappa. Amo. Ragazzi, Cappa e Drago. Se non fai on. Chiedo asilo. Oggi è venerdì, venerdì. Oh, e siamo reduci dalla febbre del giovedì sera, quella dei talk show, dei talk show. Fight Club, che però io continuo a non guardare perché sono troppo attratto da X Factor. Talk show, sai talk che non, show. Suona, non suona bene. Talk show, bisogna dire la L. Non lo so, però in effetti questa cosa mi mette in crisi, perché quando sei in ambito, diciamo, linguistico italiano, bisogna forzarla la pronuncia estera o no? Perché sulle parole straniere dette da tutti ti viene un po' lo snobismo di dire io lo dico diverso, ecco. È giusto. Invece sulle parole straniere non di utile, di uso comune, si è molto più portati a dirla sbagliata, a dirla all'italiana. Ad esempio, non so... non so, il megafono, sì, in inglese si dice Lautsprecher, no? No, quello è tedesco. Si dice megaphone, però se dici il megaphone, ma no, però dici il megaphone. Il megaphone. Se invece devi dire talk show, dici talk show. Talk show, senza la U, talk show. Va bene. Adesso che abbiamo deciso come si dice... Diciamo che il talk show è sicuramente un'istituzione in crisi. E io ho un po' la crisi di rigetto nei confronti di Santoro, del talk show... Ma anche di Santoro. Sì, cioè, sì, di tutto. Insomma. Ma la crisi di rigetto di Santoro o del talk show? Di tutti e due, cioè di tutti i talk show. Cioè se proprio mi succede di non avere voglia di alzarmi per prendere il telecomando, guardo 8:30 con Lilli Gruber... O Gruber, vogliamo, ma poi mi addormento. Non è Frau Blücher, è Lilli Gruber. Gruber, vabbè, quindi... Comunque. I am Frau Blücher. Urge qualcosa per risollevare l'onore del talk show. Anche lì ormai si è creato un blocco di conduttori da rottamare, sempre uguali da anni, rottamiamoli. Ma scusa, oggi comunque è venerdì. E quindi stasera c'è Gianluigi Paragone con l'ultima parola. Vabbè, quello proprio me l'ero dimenticato, non mi ricordavo che era... L'unico che ha veramente rinnovato il talk show è Gianluigi Paragone. Perché? Perché canta, no? Dai. Sì, suona la chitarra con la band dietro, no. Lui tutto... Fa gli editoriali così, rock and roll. Ma questo qui è Paragone. Senti, senti. Ma no. Senti che roba, anche un po'... Un po' Van Halen. Lui suona la chitarra come Van Halen, Paragone. È lui? Eh sì, lui. Ecco, vedi? Vabbè, ma è la sua band questa. La band di Paragone. Paragone. Andresti a un concerto di Paragone? Beh, paragonandolo a quelli che ci sono adesso, forse sì. Cosa dice? Bossi e la Lega. Canzoni senza patria e soluzione a Mario Monti, neanche più. Essa Fornero, neanche più. I bilanci in rosso, le tende morti, i ministri puliti, fuori di corte. Vabbè, ma noi, scusa, ma sono anni che noi facciamo sta roba qua senza tutto sto. Voglio dire, il bambino Alberto, la sua canzone sullo però spread. Monti, usare queste cose. Monti, vabbè, da noi è diventato un videogioco. Certo. Vabbè, comunque, insomma, almeno si distingue. Giusto, dai. Tra l'altro, si è anche messo l'orecchino. Che si era tolto quando era diventato leghista, se l'era tolto. Quando, perché adesso non è più leghista. Ma no, adesso non è più leghista. E adesso che cos'è? E adesso è in attesa, no? In attesa. È in attesa. In attesa di cosa? Di vedere come evolve la situazione, no? Perché in Rai è un enorme stand-by. Come sarebbe a dire un enorme stand-by? Cosa sì, vuol dire? Sì, perché tra l'altro la Rai dovrebbe usare questa cosa, fare stand-Rai, perché fa tutti i programmi usando l'AI americana o inglese, insomma. Sì, come dicevamo prima. Perché sennò sarebbe iPad, no? IPad. Invece iPad. E quindi loro... RaiPad, RaiTunes. RaiTunes, famosissime. Già. RaiTunes, musica cool. E voilà, sono il vostro Bertalo. Qui c'è la raclette. Ah, mi hanno portato il Fontal, ma Fontal non va bene perché ci va la Fontina Valdoten, che è molto migliore del Fontal. Che parli di formaggi? Fontal, è roba cool, Drago. Buon. Il DJ cool, Valdostano. Bertalo e Valdostano e formaggi. Ma non è Valdostano. No, ma Bertalo, c'è il Bertalo. Sai che di Vercelli. È canadese. E ora, bambini, ricreazione. Joris, senti un po', ma ti è arrivato anche a te questo documento, questa comunicazione dalla direzione dell'asilo, no? Che c'è scritto, cioè, che è un questionario per bambini, questionario di Proust, no? Ma no, di Proust, mai visto. Di Proust, che è una specie di touch, no? Deve essere qualcosa di... cioè, è qui però di carta alla fine, cioè, Proust, ma c'è un foglio di carta con scritto delle domande, no? Tipo qui, che tu devi rispondere e consegnare poi, no? Col timbro. No, io non l'ho mai visto, no, bello, però non ce l'ho, non mi è mai arrivato. No, bello, qui, allora, vediamo un po'. Va bene. Guardiamo insieme che arriverà anche a te, magari ce l'hai, tu non ce l'hai, anche la portineria l'avrà lasciato lì fuori. Allora, vediamo qua, ne comincia, nome, vabbè, questo, bambino Alberto, mi chiamo bambino Alberto, tu. Ah beh, io non dico Joris, qual è il problema? Appunto, età, boh, età, andiamo all'asilo, cioè, piacere, no? Uno va all'asilo, quello vuol dire l'età, quanti anni hai? Vado all'asilo, ah, ok. C'è bisogno mica di entrare nello specifico, no? No, anche quando dico, sembra che c'hai 20 anni. Io c'ho 20 anni, cioè quello che sembra a volte sei anche come età. Questa è filosofia, no? Tu filosofeggi. Dove abiti? Dove abiti? A Milano, no? Dove più che altro? No, dove? Io abito a Milano, in centro. Ah, la città! La città dove Milano? Cioè il postribolo, cioè, di cosa stavo parlando? Non ho capito, non l'avevo capito. Ma tu dove abiti? È un problema? Sei un rom? Sei itinerante? Sei un nomade? Sono ospite, allora, sono ospite io. Vabbè, sei ospite, allora. Io sto a Milano qua. Cosa ti piace della tua città? A me piace che... alla fine fammi pensare... è che c'è tutto vicino, no? Cioè, io dove abito io, c'è vicino... esco, c'è l'asilo. Vado dritto, c'è l'asilo. Vado a sinistra, c'è il cinema. A destra c'è il tabaccaio, per i grattini. E per i grattevinci. Quindi... sei fortunata, vabbè. Cioè, io dove abito io non c'è niente, proprio niente. Siamo in tre, dentro una stanza. Un albero morto da chissà quant'anni e un parchetto finito e strafinito e nessuno che lo usa, della gente là con in mano delle cose si passano, no, delle cose alla mano. Ma dove stai? Un circo, allora. Poi qua, cosa non ti piace della tua città? Cosa non ti piace? Perché c'è cosa ti piace e cosa non ti piace. Ebbene, ecco, non mi piace l'aria, la puzza. C'è una puzza, a Milano è terribile, e c'è una puzza che è velenosa, nel senso non solo che mi fa male al corpo, fa male anche alla mente, che poi qui la gente è tutta avvelenata, e c'è un'aria, capito, un'aria cattiva. Tuo migliore amico o amica, e io adesso guardami così, io devo dirlo, tu non devi offenderti perché è questione di miglior amico è Gildo. Non c'è problema, basta che non ti offendi tu, il mio migliore amico sei tu. Ma che mi offendo io? Per me piace, c'ho due amici, cioè io ho un amico, no? Un miglior amico, però ce ne ho due che io sono per loro il loro miglior amico. Tuo difetto, il tuo difetto. Che difficile. Difetti. Ecco, no, cioè, ecco, non sono ancora riuscito a mangiare 10 budinetti senza respirare. Questa è una cosa che faccio fatica. Lo dico a te perché sei un amico, no? Che hai detto, i budinetti? I budinetti. I budinetti, cioccolato, vaniglia, panna cotta. Poi, comunque, andiamo avanti, perché questo è un test, è un questionario, che sembra tra qua a parlare. Allora, vacanze preferite? Allora, Disneyland. Subito la prima Disneyland. Disneyland con la signora Amicia. Hotel a 4 stelle, quelli stile western. Frigo pieno, TV schermo gigante, giochi, videogiochi, via. Colore preferito, rosso. Animale preferito, lemure. Che cosa ti rende triste? È Milano. È Milano quanto perde. Io poi mi tristisco un po'. Io sono contentissimo. Come, quando? Quando perde il Milan. Ma perché, scusa? Perché tengo l'altra squadra. Da cattiveria, ho capito, perché devi avercela con me, con no, il Milan. No, perché aiuto la mia squadra, mica perché ce l'ho col Milan, no. Poi, cosa ti fa paura? Fa paura il portinaio. Ecco, il portinaio, ogni volta che lo muro vivo nella guardiola con il cemento presa rapida, poi ho paura della sua vendetta. Ma questa è la cosa che non dormo la notte. Capito? Cosa vorresti fare da grande? Io la spia. Tu? La spia? No, quando vai? Io la spia, mi piace fare la spia, ma non la spia che fa la spia, la carognetta, la spia! Ah, la luce, cioè tipo la spia della... il riflettente! Ma cosa stai dicendo? Ma noi spia di guerra fredda, di spia internazionale, di cose che tu non puoi capire, quale spia dell'accensione! Ah! A proposito di spionaggio, questo documento non è chiaro. E qui sono dati, queste domande sono dati, come si dice, sensibili, no? Dati sensibili sono quelli che sono dati che bisogna stare attenti a toccarli. Vuol dire, li mando già mi col culo, perché se vanno in mani sbagliate, poi è un problema, capisci? Problema di privacy, quindi qui timbro, clausola privacy da firmare, l'addendum non c'è. Quindi qui o ci si mette d'accordo, vis-à-vis, vivendum con direzione asilo, altrimenti andiamo per avvocati.